Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. State tranquilli, non ho tradito la consegna che mi è stata data. Lo so, io viaggio da settimane con un foglietto chiuso nella tasca della giacca. Sono le domande che ho compilato su indicazione, anzi su invito, anzi su imperio dei miei ascoltatori, che devo fare al viaggiatore misterioso genovese qualora lo incontrassi. Ma sono settimane che non lo incontro, come se fosse scomparso, volatilizzato. Poi finalmente, adesso lo vedo. Lo vedo completamente rivestito, completamente messo a nuovo. Sembra Valentino vestito di nuovo, con il vestito che gli ha fatto la mamma. È allegro, contento. Lo vedo anche dimagrito, lo vedo anche in salute. Mi guarda, mi chiama, mi sorride. Vado da lui, mi porto il foglietto dietro. State tranquilli. Com'è tutta questa allegria? Che è successo? Ah, ho avuto un colpo di fortuna micidiale. Ho preso con 20 euro il premio, quello per la pensione, il vitalizio a vita. Cioè, col grattavinci? Sì, con grattavinci da 20 euro. Ma scusa, uno come lei che ha girato il mondo, maneggiato fantamiliardi, conosciuto il mondo, fa il grattavinci. Cioè un biglietto semplice, single, così, una botta e via. Sì, 250.000 euro di premio, o si riscatta quelli lì e si paga le tasse, o se no 3.000 euro al mese per vita naturale durante. Hanno fatto i conti, ma le è convenuto? Fatti i conti, quanti anni ancora c'è da vivere se le conveniva? Ma ho preso i 3.000 euro perché, insomma, mi veniva meglio così. Non era meglio 250.000 subito? Sì, subito, insomma, bisogna passare all'ufficio della fidanza, insomma, c'è tutta una burocrazia. Lordi dalle tasse, sono lordi dalle tasse però 250. Sì, lordi. E il vitalizio lo devi denunciare poi come un reddito? È un reddito. E quindi alla fine le tasse le paga anche lì però? Sì, vabbè, non prenderò 3.000, prenderò 2.750 al mese, però insomma. Dice meglio questo, almeno è tranquillo, beh, mica male. Sì. Poi intanto li devolvo per beneficenze varie che fai, do una mano un po' a certa gente. Ma non ha fatto una botta di vita, qualcosa per festeggiare la vince, non lo so, donne, champagne, viaggi? No, è passato quel tempo lì. Sono andato a Lima a trovare un mio amico Marco Fontana che risiede giù da anni. Lei c'era già stato in Perù naturalmente? Sì, che lui è di Chiavari, quindi sono andato giù. E cosa fa questo in Perù? Cioè, è quella signora che le parlavo che importa esporta la melassa dal Perù. Ah, l'esportatore di melassa. Tra l'altro è famoso Marco Fontana perché è stato uno dei primi rapimenti assieme a Gadol a Genova, sa? Ah, fu rapito con lui stesso, per questo è andato in Perù, ha paura di... Sì, ma sono, le parlo, era al 70, se ne sono andati, suo padre era sindaco di Chiavari. Io sono costruttori, sono molto amici di Silvia Cornacchia, cioè Silvia dei Monti, quella lì che faccio l'attrice, che ha sposato Donna delle Rose. Vabbè, comunque adesso senza entrare. È andato in Perù, cosa ha fatto questi giorni? Niente, è stato a casa. Se c'era un tempo orribile, sempre più delinquenza, diventava Lima, è diventata la città proprio da uscire col macete. Quindi è stato chiuso dentro casa alla fine col suo amico? Sì, lui vive, c'è dei quartieri, quello si chiama quartiere Palermo, e c'è i vigilanti, polizia privata, c'è di tutto. E lui è sempre bello, perché io lo conosco, ma insomma, città di Lima, addirittura mi diceva della gente che qui a Genova abbiamo una discreta comunità di peruviani, boliviani, ecuadoriani. Non possono nemmeno più mandare i soldi alle famiglie, perché lì quelli che hanno un po' di benessere laggiù, che glieli mandano dall'Italia o dal paese della comunità europea, li rapinano. La convivenza tra mafia e servizi segreti e terroristi, cioè dal 1950, Sì, ne sa qualcosa lei? Sapevo, perché quando frequentavo il signor Cossiga, il Sismi, c'era più balordi dentro che polizia. Glielo diceva Cossiga questo, oppure una sua intuizione? Interessante, lei tocca sempre degli argomenti molto interessanti. Ma era amico di Cossiga lei? Sì, perché ero molto amico di Sveva, sua nipote, che è all'ordine degli notai di Milano, bellissima ragazza sarda, l'ho conosciuto proprio bene nel periodo che era presidente. Quando frequentava la nipote, praticamente? Ma sì, ma lui era un simpatico, sa così, Sì, sì, ma... Burbero, ma simpatico. Beh, quello che ha fatto più servizi segreti d'Italia... Tutto quello sottobosco della politica dei servizi segreti è tutta. C'era un servizio, lui ne faceva un altro. Ma lui una volta visto anche si faceva fotografare in divisa, era molto appassionato lui di. Sì, ma era di cose militari. Sì, le piaceva. Poi l'ha ammazzato un cugino che faceva il coltivatore giù a Sassari, Cagliari. Chi gliel'ha ammazzato? L'ha trovato nella serra con un bel colpo di pistola in testa. Vabbè, può capitare da quelle parti, magari. Ma lì è capitato, perché lui aveva mani. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Senta, io non so come dirglielo, ma avrei un incarico. Cioè, abbiamo raccolto in questi ultimi mesi una serie di domande precise. La gente che ci ascolta mi dice: abbiamo delle domande da fargli, e me le ero segnate, me le ero portate dietro. Se le va di rispondere a qualcuno, sono la gente che ci ascolta e hanno dei dubbi. Sì, io rispondo. Allora, mi chiedono, ad esempio, se ha mai rischiato la pelle e come si è salvato. Non so perché. Sì, ho rischiato un sacco di volte la pelle, non per conoscenze, non per la droga che le ho parlato, ma soprattutto. L'ho visto più grosso, l'ho corso perché correvo dietro da Gondella in Bolivia, in Brasile, era la compagna di un boss che mi ha sparato, non mi ha preso, ma mi ha tentato di far fuori. Lei ha provato con la donna di un boss? Suicidio? Provato, mi piaceva tanto e ci ho provato, lì era uno sgarbo. Ma lo sapeva? Un messicano... Era un cazzoso nero. Ma che rischiava la vita lo sapeva quando corteggiava questa donna? Ma insomma, che uno arrivasse a spararmi non ce l'avevo mai pensato. E cosa ha fatto? Ha tirato fuori la pistola e ha sparato senza dire niente? Ha sparato solo mentre entravo a casa, sotto casa. Che era l'unica villetta che c'aveva, che c'era, che non aveva il cancello elettrico. Il guardiano si era addormentato, sono sceso per aprire il cancello, insomma, c'erano più buchi della macchina che niente. Poi il giorno dopo è venuta la sera la polizia, tutto, e ho fatto denuncia contro anonimo, e poi uno dei signori lì del cartellino che conoscevo le ho spiegato e sono andati a prenderlo e le ho detto di lasciarmi stare. Cioè, è intervenuto per vie indirette? Sì, io ho lasciato stare la signora. Ma le hanno sparato sulla macchina pensando che lei era dentro? Ma oppure... è andato dalla ficcata di vetro, che se ne prendono mi fanno a pezzetti. Ma l'hanno colpita, ferito? No, non mi hanno colpito, fortunatamente. Ma l'ha sentiti vicino i colpi, sì? Guardi, la raffica di vitro, poi quando piccano le carrozzerie delle macchine fanno più rumore. Quindi lei, e questa è la volta che ha rischiato, solo quella volta lì è successo? Sì, poi insomma stupidate, rise. Questo, aspetta, questo mi dico, si è mai picchiato qualcuno? Fra le domande ci sono, mai fatto sì, a botte? Sì, guardi, mi picchiavo, ho cominciato a picchiarmi con la pallanuoto e quando andavo allo stadio, che io sono genovano, erano sempre botte tutte le domeniche. Ma in queste avventure in realtà con gente straniera, gente cattiva, l'è mai successo? No, le botte più grosse le ho prese a Bergamo. Ah, in Italia? Andare a vedere, sì, eravamo un gruppo che eravamo andati a vedere il Genoa-Atalanta e ci hanno fermato, ci hanno chiesto loro, e noi genovesi l'abbiamo detto, ve li fare la partita, una rissa come chi devi tutti. Stanno entrando in domande, però un pochino, può rispondere o no. Hai assunto droghe non conosciute in Italia? L'unica droga che non avevo visto in anticipo era il crack, ma non l'ho mai fatto perché avevo visto gli effetti devastanti. Dove l'ha ho visto? Ho usato molto, che non c'era in Italia, il Betel. Ah, il Betel, sì, perché si mastica? No. Cioè, è una foglia come la cocaina, si mastica. E dove questo? E quella c'è un po' in tutta Sud America, ma c'è anche nel Nord Africa, E che effetto fa? Ma fa un effetto, leva un po' l'appetito, la sonnolenza, niente di particolare, perché dal Betel non c'è nessun, chimicamente non tira fuori niente. Serve quindi, per faticare, insomma. È quello che mettono nell'arghillè il Betel, sa? Altra domanda, a cui può anche non rispondere, ha mai ucciso qualcuno? Da militare purtroppo non è successo. Ah, da militare, ecco. Cioè, l'ultima guerra che ho fatto, l'ho fatta a Timor. Timor-Est, quando Timor. Che anno era? Torniamo indietro di 15 anni, 20. Ero nel reparto dei lagunari in sostegno alle truppe portoghesi. E lì si spara, abbiamo sparato. Infatti c'ho un colpo di fucile nella schiena io. Ah, quindi è ferito? Sì, l'hanno ferito. E chi aveva sparato? Che ne so, no, stavano dalla giungla. No, ma chi erano? Pirati? Chi erano? Guerriglieri? No, c'era il governo, l'esercito indonesiano. Gli indonesiani? I portoghesi, gli olandesi, perché tutto il casino è successo che l'isola di Timor è divisa in due, una parte portoghese e una parte indonesiana. Poi lì c'è il mar della sonda e c'è tutte le cose petrolifere, no? Il casino è successo per quello. Poi l'ha messo a posto il vescovo e il cardinale di Lisbona, si sono messi d'accordo e la guerra è finita, ma è stato un massacro civile. Ma gli italiani che c'entravano in quella guerra? È perché il lagunare di San Marco e tutte quelle guerriglie lì sono sempre intervenuti facendo parte della NATO. Ah, come truppe NATO, un appoggio, truppe d'appoggio NATO. In realtà dovevano andare. La mandano giù con spiegazioni di sostegno, poi si trova lì e sparano addosso anche a lei. E quindi bisogna difendersi. Quindi è inutile che dicono andiamo a metterci l'elettricità, gli acquedotti, quando le sparano dalle finestre delle case. Alla fine ci vuole 10 tecnici e 200 militari per fare un impianto. Quindi era ben armato lei, ben dotato. Lì era una dotazione di guerra pesante, territoriale. Ma che aveva di arma a quel tempo? Lì dal mitra, dal Kalashnikov, alle bombe, al fosforo, alle pallottole traccianti. Di tutto? Tante pallottole di plastica. E che servivano per non ammazzare? Quelle lì sono terribili, perché se la colpiscono i raggi non vedono la traiettoria della pallottola. Rimane dentro. Se la vanno a trovare, picchia io la gamba, magari finisce nel fegato, come fa a saperlo? E quella che c'ha dentro lei cos'è, di plastica o di piombo? No, il mio era un bozzolo di piombo che mi è rimasto attaccato, un po' sfuorescendo, infatti c'è un bel buco nella schiena. Di che fosforescente? No, l'ha detto lei? È bruciato. Ah, è bruciato. Al fosforo, nel senso che al fosforo. Vabbè, è bruciato, sì. Ah. Sì, quella lì è al fosforo che quando la colpiscono poi... Scotta. La fanno arrosto. Sì, certo. Penso. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Senta, poi il paesaggio, il luogo di terra, di mare più affascinante che ha visto. Non lo so, questa è difficile rispondere. È legato a tanti momenti, stati d'animo. Gliel'ho detto, amo i posti più semplici delle volte, però. Sì, vediamo se questa invece risponde. L'ultima volta che ho avuto un po' di nostalgia, ho fatto una di quelle mulattiere che ci sono all'interno della Liguria, dove avevo delle fotografie quando avevo 10-12 anni, 11, che col prete andavamo a segnare i percorsi, sa? Si metteva la croce, si metteva il tombo. Faceva i sentieri. L'abbiamo trovati ormai con sterpagli e tutto, c'era un disastro. Poi lei ha girato tutto il mondo e il ricordo più bello ce l'ha di qualcosa che è vicino a casa sua. È bello. Sì, sono piccole cose, io mi innamoro delle piccole cose. Ecco, però questa vediamo un po'. Qual è la donna che invece non dimenticherà mai questa donna? Nel senso più assoluto, mia nonna. Questa risposta paracula, dai, mia nonna. No, veramente, mia nonna mi ha illuminato la vita, mi ha cresciuto fino a... Sì, ma qua si fa le donne in giro nel mondo, donne conosciute, non come si conosce una nonna. No, che donne... Quelle niente, non se le ricorda nessuno. Poche, ma nemmeno poche, niente, proprio non... Non se le ricorda nessuno. Non hanno lasciato niente, tanti bei ricordi, poi... No, non ce n'è una donna in particolare. Che non ha mai non ha mai investito in un rapporto stabile, ecco, forse così, con una donna, forse questo. No? Può darsi, non lo so. Se no, almeno una se ne ricordava, che l'ha fatto dannare. Forse la moglie... Sì, me la ricordo qualcuna. La moglie del messicano è l'unica che l'ha procurata. No, non sono, ma lì erano colpi di testa, perché insomma, io avevo... Correvo dietro le gondelle, quando mi piaceva poi una era più forte di me. Ma di tutte queste gondelle non c'è una che gli è rimasto un ricordo, una nostalgia? Non so, capita una volta. Sì, mi è rimasto qualcosa, qualcuna me la ricordo più piacevolmente di altre. Ad esempio, mi ricordo una messicana francese che si chiamava Françoise Reisdecker, che mi piaceva l'eleganza, lo stile, lo charme di sta donna. Ma poi l'ho rivista dopo 20 anni, mi sono chiesto che cosa ci avevo trovato in quella lì. Ah, quello succede sempre, quando si rincontra le persone dopo qualche anno, dici, ma è possibile che per questo... Ma veramente, è successo anche a lei, credo, sempre, no? Sempre, uno fa dei rincontri a distanza di 15 anni, 20 anni, 30 anni. Adesso dice, poi che c'è Facebook, uno vede le amiche della giovinezza su Facebook, dice, ma pensate questa io, ero impazzito. Sì. Come sei cambiata? Cambiamo anche noi, ma anche al di là del cambiamento. Ma loro, mi dice, dalle donne, ce n'è qualcuno che si tiene bene, perché le conosco. Però sono quasi tutte vedove o sole quelle che si tengono bene. Qualcuno deve schiattare nella coppia, vince chi ce l'ha più dura. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Per la prima volta posso dare credito a quello che è il pregiudizio orribile, infame e del tutto ingiusto che mi viene attribuito. Ho avuto un incontro marpionesco sul treno. Ma il marpione non sono stato io. Marpionessa era la donna che mi guardava con insistenza, che ammiccava, che scuoteva i capelli, si toccava i capelli in quella maniera che hanno le donne di toccarsi i capelli per farti capire che vogliono non solo richiamare la tua attenzione, ma una sorta di autoaccarezzamento, di incitamento alla promiscuità. Insomma, mi faceva gli occhi dolci. Aveva una grande cartella in mano, probabilmente piena di progetti, di disegni, di oggetti di lavoro. Era una donna imponente, imponente perché arrivava quasi fino al culmine del sedile, con la sua chioma di capelli enorme, fluentissima. Sembrava la criniera di un leone, ma in realtà era una leonessa. Che ne dici quelle signore che mettono i capelli bianchi, a 35 anni già si vedono tutte bianche? Cosa molto moderna. Ma io in realtà le guardo con ammirazione. Sono un po' terrificante. No, le guardo con ammirazione. Bisogna... Ma gli uomini siamo abituati a vedere la donna tinta da troppi millenni, capito? Non vogliamo vedere lo stigma dell'invecchiamento in una donna, perlomeno nei capelli. Altre cose poi ci facciamo meno caso.

Ma tutti, ognuno di noi trova degli apprezzatori o delle apprezzatrici, basta saperli cercare, perché esiste in ogni fetta dell'umanità qualcuno che apprezza il genere che noi portiamo addosso come brand, capito? È che l'uomo in generale pensa di essere il principe azzurro. E gli architetti ancora di più. E beh, perché sono fighi, faccio l'architetto. Sono fighi, si sentono sono dei gran fighi. Sono creativi, si sentono Vesto dei gran architetto. Fighi. Tutti ti chiedono, oh sai, devo ristrutturare casa, mi fai un disegnino, queste cose orrende, capito? Beh, io sto cambiando un po' il target. Sì, sto cercando di cambiare il target. Cioè, fascia alta o fascia bassa, qual è la scelta? No, la fascia, beh, l'alta non mi piace mai. L'alta non mi piace. Beh, okay, fascia bassa abbiamo capito che è la tua predilezione, ma anche in termini di... Cioè, cambiando genere, lasciando le tue spalle gli architetti fanno parte del tuo passato, dove andrei ad attingere? Sicuramente una parte che mi piacerebbe attingere un po' di più sono questi che sono tutti legati al bio, che vanno per campi, che vanno per campi, sì, che hanno tutte queste certezze su come sviluppare la propria vita in funzione della... Però ti direbbero subito che non devi fare la tinta, perché la tinta è poco ecologica. Dovresti farti i capelli grigi con loro. Tutto Beh, questa grigio. È una tragedia. Grigio no? Sopra e sotto, è così. Però delle volte penso, ma fino a che età me li terrò così? Beh, spero sempre. Siamo abituati, sono delle signore ottantenni carinissime con le loro permanentine con i riccioli azzurri. Cioè, azzurri appunto, sì, ma... quando li incomincerò a fare anch'io azzurri. Il treno va. Per pareggiare l'incontro con la marpionessa dell'inizio di questa fase del mio viaggio, come dura da tanti mesi, è più di un anno che praticamente passo le mie giornate libere seduto nello scompartimento di un treno. Ho capito qualcosa di più della vita, ma non so, molto. Ho imparato a millantare molto della mia vita. Ero già un millantatore nato. Già il millantare faceva parte delle mie caratteristiche professionali. Oggi millanto molto meglio, perché oggi sono diventato un confidente, un maestro di vita, un dispensatore di consigli utili, come quelli che mi chiede questo sconsiderato e del tutto disattento alla sua felicità ascoltatore. Caro Gianluca, sono anni che ti seguo alla radio e non ti ho mai scritto. Questa volta però mi sono deciso perché questa rubrica In coda al treno mi diverte e mi interessa sempre. Sono un avvocato 35enne che esercita il suo lavoro con grande passione, nonostante le inevitabili zone d'ombra del mestiere, la routine, i compromessi. Ma non ti scrivo per parlarti del mio lavoro. No, anche io voglio sottoporre al tuo vaglio la mia situazione sentimentale. Tante volte ti ho sentito parlare nei tuoi programmi delle zavorre esistenziali che ci portiamo dentro e di tutti i paletti di cui siamo circondati e invitare gli ascoltatori a liberarsene. Molto spesso hai criticato giustamente le tue interlocutrici, magari quarantenni ancora imbrigliate nel rapporto con i genitori, ancora in cerca di consenso e approvazione da parte dei propri familiari, anche in ambiti del tutto privati come le relazioni sentimentali. Ecco, la mia storia riguarda questo tema. No, non sono un mammone. Al contrario, sono andato a vivere da solo presto e mi sono reso autonomo dalla mia famiglia prima dei miei coetanei. Forse mi ha aiutato il fatto che sono andato a studiare in un'altra città e la famiglia era lontana. Ma vicino a me ho sempre avuto quei 4 o 5 amici che mi porto dall'università e che sono stati veramente la mia famiglia di fatto. Viviamo ancora oggi tutti nella stessa città. Abbiamo fatto studi simili, abbiamo condiviso spesso vacanze e persino mutua assistenza nelle malattie. Passati i 30 anni sono cominciati ad arrivare i fidanzamenti, qualche matrimonio e qualche figlio. E anche se non ci vediamo con l'assiduità di un tempo, siamo sempre molto affiatati. In questo contesto, le fidanzate che sono entrate a far parte di questa famiglia di amici, diciamo così, non sono mai state un vero problema. Fino a quando non è toccato a me. Molte persone mi raccontano del loro essersi affrancate dalla famiglia d'origine. Perché sanno, è notorio, l'ho detto più volte, l'ho scritto, io ho intrapreso a suo tempo un'opera radicale di sfamiglio, non perché ce l'avessi con la mia famiglia, perché mi rendo conto che a un certo punto la famiglia d'origine è un luogo dal quale bisogna togliere gli ormeggi per sempre, non avere la speranza di ritorno. Bisogna cancellarlo dalla propria mappa delle navigazioni e delle derive di quelle volontarie e di quelle involontarie. Ma però questo significa che uno non deve ricostruirsi qualcosa di simile una trappola ugualmente vischiosa una volta che si è liberato dai cosiddetti legami di sangue. Ma molti lo fanno, e lo fa questo nostro ascoltatore. Di solito ho sentito raccontare questa storia, ho fatto questa valutazione con donne. Le donne molte volte ricostruiscono una cerchia di amiche che molte volte sono esigenti, intriganti, peggio di una madre, peggio di una sorella, peggio di vecchie zie. E c'è una sorta di controllo reciproco in queste amicizie viscerali. Sono amicizie che hanno radici lontane, si conoscono magari sui banchi di scuola, all'università, o magari in posti di lavoro perché sono colleghi, o magari si sono frequentati in vacanza. E lentamente, se vivono assieme, questi amici diventano l'uno il custode dei segreti dell'altro. Guai chi in questo giro di amicizie non si confida con gli altri amici. Guai chi non scartabella e sviscera la propria vita personale, privata, intima ogni volta con tutti gli amici, che sono il collegio giudicante, allo stesso tempo sono l'indicazione di una regola dalla quale non si esce. Questo nostro ascoltatore, ahimè, è uscito dalla regola. Ha tradito il consesso maschile dei suoi amici. Si è messo con una donna che poi non appartiene allo standard che loro avranno probabilmente immaginato. No, è una ragazza giovane, è una ragazza apparentemente senza grande disponibilità economica, e quindi una ragazza che in qualche maniera si approfitta del loro amico. Un anno fa mi sono fidanzato con una mia cliente, o meglio, la figlia di una mia cliente. Lei ha 25 anni e ha una storia completamente diversa dalla mia. Non ha potuto fare gli studi universitari. A 18 anni ha cominciato a fare la cameriera e poi via via sempre lavori simili nei bar e anche d'estate nei villaggi. È anche molto bella, e questo non è un dettaglio da poco. Perché quando, dopo i primi mesi dall'inizio della nostra storia, l'ho presentata alla mia community, ho cominciato a sentire una strana atmosfera nei suoi confronti. Gli amici, come i genitori, fanno capire moltissimo con pochissimo. E io ho immediatamente percepito una certa diffidenza nei confronti della mia ragazza. Sorrisi, sì, chiacchiere e gentilezza. Ma di fatto si vede che la invitano alle cene o a cinema solo perché è la mia fidanzata. Io nutro il fondato sospetto che lei sia considerata dai miei amici come la ragazzetta che abbia calappiato il professionista benestante per sistemarsi. L'ho capito da tante piccole cose e da qualche battutina. Oltretutto pesa anche il fatto che questa ragazza non ha una grande cultura, e noto che molto spesso nei discorsi lei venga ignorata, come se dicessero: ma tanto che avrebbe poi da dire dell'ultimo film di Sorrentino. Questa situazione mi pesa sia perché ai miei amici ci tengo, sia perché lei, che non è affatto stupida, ha capito benissimo di non essere stata accettata né dai miei amici né dalle loro compagne, che al massimo mostrano un atteggiamento un po' pietistico nei suoi confronti, che forse è ancora peggio. Insomma, mi trovo in una situazione da cui non so uscire. Non voglio rinunciare ai miei amici, ma non voglio nemmeno persistere a vivere la socialità con questo finto spirito di gruppo e convivialità di facciata. Devo concludere che gli amici possono essere come e anche peggio dei genitori? E qui comincia il tormento del nostro amico, perché deve decidersi. O lei o noi. È terribile, sembra quasi di avere a che fare con una moglie che ti parla dell'amante, con un marito che ti parla dell'amante se tu sei una donna. Scegli tra noi due, tra due fidanzati, una sorta di giudizio di paride, solo che invece di due bellezze la persona deve scegliere fra un gruppo di vecchi amici che oramai sono stati compagni della parte più lunga della sua vita e una giovane ragazza. Sì, probabilmente sarà stata anche in qualche maniera allettata alla conquista di uno status, ma che in fondo gli vuol bene, in fondo sta con lui, in fondo lo sopporta, in fondo lo rende felice. Se un amico ti è amico, abbia a cuore la tua felicità o la sua vanagloria di averti a disposizione in maniera totale. Non ci sarà sotto probabilmente un sentimento di invidia. Non sa che i suoi amici rosicano perché loro continuano ad andare a mangiare al ristorante, a vedersi le partite, a fare vitelloni lungo e dietro e nel corso cittadino, ma lei in fondo ha trovato una donna, ha trovato un amore fresco, un amore giovane, un amore pieno di speranza, una persona che la fa contenta. Non sa che i suoi amici non chiedono altro di avere un livellamento infame nella loro meschinità, e altro non vorrebbero che questa ragazza, che loro probabilmente desidererebbero e ne vorrebbero una anche per loro, e vedono che sicuramente si è rotto questo patto di fedeltà per cui tutti non essere livellati nel loro egoismo, nel loro antropocentrismo e nella loro squallida maniera di considerarsi uomini che non hanno bisogno di nulla. si tenga la sua ragazza finché la ragazza si terrà lei e lasci perdere gli amici che ormai già l'ha persi da molto tempo. Avete ascoltato Il treno va, conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound design Luigi Speciale.